X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei li è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Riparliamo a gennaio? Cioè 200-300 miliardi. A gennaio Passera mobilita 200-300 miliardi. Beh, dove li prende? Lasciamo un attimo di suspense. Ah, sempre a gennaio. Beh, appuntamento quasi a tutti a gennaio. Era Corrado Passera, Mix 24, il primo novembre. Siamo al 13 febbraio. Allora, dottor Passera, a che punto siamo? Buongiorno. Buongiorno, direttore. A che punto siamo? Siamo a un ottimo punto. La decisione che ho preso è di completare l'intero programma, non soltanto la parte economica, e quindi... E il ritardo dipende da questo? Non c'è nessun ritardo. No, rispetto a quello che mi aveva detto. Lei avrei parlato di questi 200-300 miliardi. A questo punto c'è il programma completo, il 24 febbraio lo annunciamo formalmente e ufficialmente a tutti. Ma questi 300 miliardi mi dica qualcosa. Da dove li prendiamo? No, allora, ci sono, in realtà se ne possono mobilitare anche di più. Le faccio solo due dei cinque esempi, sì, e delle cinque leve che utilizzeremo, usando e applicando il modello che già la Spagna possiamo ripagare immediatamente 100 miliardi alle tante imprese italiane che stanno soffrendo per i debiti non pagati della pubblica amministrazione. La Spagna ha dimostrato che si può, e ci possiamo aggiungere delle cose tutte italiane che poi spiegherò. Il mondo del credito è un mondo dove anche lì tantissime aziende e famiglie soffrono. Il modello tedesco di cassa depositi può essere un modo per realizzarlo. Cioè la cassa depositi prestiti sarà nuova, cioè una potenziata cassa depositi e prestiti che assomigli di più a quello che i tedeschi hanno saputo intelligentemente utilizzare. Ma le ripeto, ho fatto solo due, sì, esempi dei cinque, delle cinque grandi cose che bisognerà fare. E gli altri tre li tiene per il 24 febbraio? Qualcosa per il 24. Ma sono soldi però che allora non vengono da fuori, sono soldi che noi riprogettiamo. Sono soldi si può che dire. Mettiamo in moto e che anche creiamo il credito, sì, sono delle risorse che attraverso la cassa mettiamo in moto. Il pagamento di 100 miliardi alle imprese che aspettano i loro, certo, crediti, sono soldi che entrano nelle tasche delle imprese. Certo, e certo. Poi c'è il capitolo soldi nelle tasche della gente, sì, perché noi dobbiamo essere consci che ci sono milioni di famiglie in vera difficoltà. Non c'è dubbio. E quindi bisogna trovare il modo, rispettando i parametri europei, non aumentando il debito, di far arrivare delle risorse tangibili, concrete, quindi, nelle tasche delle famiglie. Quindi, dottor Passera, la Cassa Depositi e Prestiti sarà al centro di una delle cose. A novembre lei mi ha parlato di un movimento. Ecco, questo movimento che cosa vuol dire? Un partito politico che si schiera col centrodestra, col centrosinistra? D'accordo. Mi dice? Allora, le dico alcune cose, sì, poi di nuovo sarà il 24 e poi saranno gli italiani a decidere. Vabbè, certo, ma lei a decidere la sua parte. Si può, a mio parere, creare un grande consenso intorno a una serie di azioni forti che non sono né di destra né di sinistra, ma che servono a rimettere in moto l'Italia. Attenzione a farci mettere nell'angolo delle definizioni o delle ideologie. L'Italia ha bisogno di rimettere in moto aiutare le famiglie, le donne con i loro problemi di bambini o di anziani, è di destra o di sinistra. È da fare. Il merito nella scuola piuttosto che nella pubblica amministrazione, è di destra o di sinistra. Quindi cominciamo a vedere se c'è questo. Le cose da fare, è un movimento intorno a queste cose. Ma in questi intorno giorni... a dei valori, dei valori, non, sono, certo, non è la lista delle cose tecniche da fare. No. Che Italia vogliamo essere. Senta, ma in questi giorni si è parlato molto del suo piano di lacrime e sangue che avrebbe consegnato a Napolitano in vista del governo Monti. Che fine ha fatto? Allora, quello, no, nessun piano segreto. Nel 2020. No, non segreto, ne ha parlato anche ieri a Milano. Segreto. Cioè, allora, 2011, lei ricorderà, un'Italia in grandissima difficoltà. Sì, certo. Ogni settimana non riuscivamo a chiudere le aste dei titoli pubblici, cioè non si riuscivano a chiudere le aste dei titoli pubblici. Io come cittadino, anche in quell'occasione, non è stata l'unica, mi sono sentito di mettere insieme una serie di proposte che potevano dimostrare che l'Italia ce la poteva fare. E l'ha data a Napolitano queste proposte? L'ho dato a Napolitano, sì. L'ho dato ad altri, l'ho dato a Monti. L'ho dato immagino. A Monti. Che fine ha fatto? Quando lei è andato al governo, come mai non era stato realizzato quel progetto? No, sono state realizzate alcune cose, tutta la parte più orientata allo sviluppo, per la parte che dipendeva dai miei ministeri l'abbiamo in gran parte fatta, però è mancato il coraggio di metterci la parte investimenti, la parte ulteriore, soprattutto investimenti e soldi in tasca alla gente. Senta, ma quindi lei sapeva in anticipo del governo Monti, diciamo, in un certo senso? Io l'ho saputo il giorno prima del giuramento. Ma anche un po' sorpreso, perché non avevo più sentito nessuno negli ultimi due mesi. Il giorno prima di quello che poi è stato il giuramento mi ha chiamato Monti, e poi ho sentito Napolitano e mi hanno detto, mi hanno chiesto se sarei stato disponibile a lasciare tutto. Senta, ed andarci. Ma l'accordo elettorale Berlusconi-Renzi è un bene per il paese? È una legge elettorale buona? No, la legge elettorale purtroppo è molto cattiva. Perché? Perché non garantisce governabilità, che è la prima delle finalità che si era posto, perché fa questi ammassi che arrivano poi al 52% e che quindi sono in mano all'ultimo degli alleati. Ma la cosa più grave è che i cittadini non possono neanche, come col Porcellum, non possono scegliere i loro rappresentanti perché ci sono le liste chiuse. E poi la storia che... Dello sbarramento? Lo sbarramento. Se uno vota un partito che è a sua volta in una coalizione, basta il 4. Se uno è indipendente ci vuole l'8%. Però i piccoli partiti sono stati un problema per la governabilità. Prendiamoci il 5% come c'è in Germania. Sì. L'8% è un qualcosa troppo. In cui quei due signori dicono non vogliamo che nessuno entri e che non parli lei da dice noi. Troppo. Questo non è buono. Lei dice troppo. Senta, un'ultima cosa, ma lei è favorevole con il suo movimento all'ipotesi di governo Renzi? Guardi, è tutto un problema. All'interno del PD c'è un balletto che dura ormai da mesi sulla testa degli italiani. Ma chi preferisce lei? Allora, ci deve essere un governo che abbia l'appoggio del partito e che passi e che quindi debba avere questo supporto. Certo. Dall'altra parte passi per il Parlamento, però basta questo balletto di rimpasti, staffetta, mi conviene, non mi conviene. Là fuori ci sono 10 milioni di italiani che cercano lavoro e questi stanno perdendo tempo per questioni personali tra di loro. Quindi non mi dice se lo preferisce il governo Renzi. Dove il PD dà il suo appoggio... Va bene. Bisogna avere dietro il proprio partito, è l'azionista di maggioranza di questo governo, bisogna che ci sia dietro, se lo decidono tra di loro. Senta, la ringrazio, allora 24 faremo un'altra puntata, questa telenovela diventa infinita, ci risentiamo, va bene? Beh, non è poi neanche così lunga per preparare No, cosa abbiamo cominciato importante. A novembre, va comunque bene. Ci conti. Va sicuro, grazie, buon lavoro, grazie, arrivederci. Quando partite per le vacanze? Oggi stesso, ci resta solo a fare valigie. E dove andate? Non sappiamo se è in campagna, in montagna, al mare, boh. Noi non lo sappiamo, sono i nostri figli che hanno deciso. Sì. Che bello. Sì, è bello, è bellissimo. Perché loro ci hanno fatto tutto un programmino. Ma non come l'altri anni a Ostia, a mezza qua, a mucchiata, poi a sera in trattoria a farsi la pazza così dei bucatini, no, no. A papà e mamma quest'anno ci pensiamo noi. Abbiamo programmato per loro un viaggio attraverso l'Italia di tipo culturale. Visite in musei, concerti, manifestazioni artistiche. Una vacanza intelligente, insomma. Legge il programmino a papà. Vi ho programmato una sosta al cimitero degli Etruschi a Tarquinia. Hai capito, papà? Ho capito, ma... C'è poco da divertirsi. Papà, i cimiteri non sono divertenti, possono però essere molto interessanti. Sì, lo so, e io e mamma ci andiamo sempre al Camposanto a trovare nonna, ci piace. Ma che c'entra nonna? Era Alberto Sordi in un episodio del film Dove vai in vacanza? Ecco, in questi giorni c'è la BIT, la Borsa Italiana del Turismo, e c'è in ballo il decreto proprio per il turismo, che però... Turismo che fa acqua da tutte le parti. Il 2013 è stato l'anno del boom mondiale del turismo, l'Italia invece registra un meno 4,6%. Insomma, abbiamo vinto la maglia nera nel turismo. Rispetto al 2006 abbiamo perso 4,3 miliardi di euro tra i turisti stranieri. Ecco, il presidente della Federalberghi Bocca, l'ennesima promessa alla BIT di Milano l'altro ieri del presidente Letta, il decreto valore turismo di cui però ieri poi non ha parlato nel suo intervento alla Camera. Lei ci crede? Lo stiamo aspettando da 8 mesi, credo che sia arrivato il momento di farlo. Lei sa che su 831 provvedimenti del governo, 807 devono essere ancora adottati. Quindi se mai ci fosse, si mette in fila con il numero 809. Soddisfatto? No, dal momento che oggi il turismo è il primo settore economico del paese, avrebbe bisogno di un trattamento diverso. Ma se dovesse farlo lei, allora il decreto Valore Italia, mi dice 3 cose chiare e semplici da fare subito? La prima cosa è investire sulla promozione per il discorso dei mercati stranieri. Il secondo sono provvedimenti di tipo fiscale, soprattutto sul costo del lavoro e sull'IMU, sugli immobili strumentali. E la terza? E la terza è il discorso del costo del lavoro, cioè più flessibilità sul mercato del lavoro per incrementare l'occupazione nel nostro settore che non può delocalizzare. Senta, la promozione turistica dell'Italia nel mondo dovrebbe essere accentrata intanto, come sostiene Renzi? Assolutamente sì, oggi noi spendiamo 3 volte quello che spendono gli altri paesi, Francia e Spagna. Per via delle regioni? Per via delle regioni, con un risultato ovviamente molto, molto peggiore, in quanto la spesa è polverizzata, certo, e non sempre promuoviamo sotto la bandiera Italia. Senta, ma è vero che l'Enit è un fallimento totale? L'Enit così com'è non può funzionare perché non ha risorse sufficienti per fare promozione. Ma solo perché non ha risorse oppure perché, come dire, manca la testa? Secondo me perché non ha risorse. Oggi lo stanziamento a favore dell'Eni serve per pagare stipendi, affitti e ci sono soldi per fare promozione. Diamogli soldi e poi diamo un giudizio. L'Italia è al 17° posto in Europa nella classifica della competitività turistica. Vuol dire che siamo il 17° paese d'Europa? Come competitività probabilmente sì, come bellezza siamo il numero 1 e questo è il grosso rimpianto. Quindi siamo molto colpevoli in questo senso. Assolutamente sì. Ma perché non si riesce a trasformarla questa bellezza in un petrolio permanente? Perché in Italia c'è sempre stato l'idea che l'industria era il settore da aiutare, il settore trainante dell'economia del paese. Oggi le grandi industrie delocalizzano in paese dove il costo del lavoro è inferiore, il futuro dell'Italia è per forza legato al turismo. Senta, il PIL prodotto dal turismo è il 4%, con l'indotto si arriva al 10%, ma già nel 2010 si prevedeva invece un PIL al 18%, la Confindustria della Marcegaglia. È un altro sogno, insomma. È un miracolo già che siamo con l'indotto al 10%, perché mentre noi ci beavamo delle bellezze architettoniche e culturali d'Italia, gli altri paesi facevano investimenti e promozione turistica. E facevano infrastrutture, perché la promozione serve se uno ha qualcosa di completo da offrire, no? Assolutamente sì. Oggi la raggiungibilità della destinazione della vacanza è diventato il primo criterio di scelta della destinazione stessa. Noi abbiamo un sistema aeroportuale e ferroviario che, voglio dire, è quasi da terzo mondo. Ma poi anche quando arrivano i turisti bisogna essere in grado di offrirgli un bouquet completo di cose da vedere, da fare, ristoranti, musei, eccetera, no? Accompagnarli. Noi, è giusto quello che dice lei, noi siamo bravi nel fare venire i turisti, meno bravi nel farli ritornare. Dovremmo imparare su questo dai francesi. Restano tutti i turisti per caso, diciamo, in qualche modo. I turisti che dicono perché devo tornare a Firenze, gli uffici li ho già visti, mentre magari a Parigi si va 3-4 volte all'anno perché succede qualche cosa. Ecco, esatto. Dovremmo succedere più cose nel nostro paese. Ecco, dal 2006 al 2012 si sono persi 4 miliardi e mezzo quasi di euro nel turismo straniero. Lei che ha molti alberghi, ha visto cambiare le esigenze, ha capito perché è diminuito così? Sì, perché noi abbiamo continuato a investire sui mercati maturi mentre si affacciavano i mercati emergenti. Mi riferisco al Far East, all'India, alla Russia, al Brasile, dove gli altri paesi sono stati più incisivi di noi. Noi invece, come al solito, siamo andati in ordine sparso con regioni e camere di commercio. E non abbiamo venduto lì dove c'erano i soldi che potevano comprare l'Italia. Esatto, abbiamo venduto male, non abbiamo venduto il Made in Italy, ma abbiamo venduto regioni che neanche gli italiani sanno bene dove sono posizionate. Cioè, mozzarelle invece che il Colosseo, diciamo. Sì, e vacanze che funzionano. Senta, le faccio ancora una domanda, ma quindi questi turisti stranieri li abbiamo persi più per pigrizia, in un certo senso dice così lei, mi pare, o più per incapacità? No, soprattutto per pigrizia, perché comunque l'Italia continua a essere la meta dei sogni dei turisti stranieri. Il fatto che ne attiriamo così pochi è perché abbiamo fatto poco. E questa è la cosa che ci fa essere ottimisti. Basta qualche intervento perché l'Italia riprenda la leadership turistica in Europa. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a lei. 800 24 0024 il numero verde, l'SMS 349 238 6666. Ecco Mario, ma com'è possibile meno 4,6 sul turismo mondiale con questa che è l'unica risorsa? Voi siete due rappresentanti di due isole meravigliose, però poi alla fine... Ti faccio un esempio. Fammi un esempio. Negli anni 90 andai prima a Hong Kong, poi in Cina, eccetera, e incontrai anche un po' di italiani che facevano business là, e a un certo punto mi dissero, sa, all'Italia qua sta smobilitando. Cioè nel momento in cui bisognava investire appunto per far venire l'Oriente da noi, l'Italia non c'era più. Questa è anche l'importanza di avere appunto la cosiddetta compagnia di bandiera, per esempio. Esatto. E quindi sono tutti problemi che sono venuti da lontano. Ma noi anche non abbiamo compagnia di bandiera neanche nell'andare a vendere l'Italia, perché vanno le regioni, ognuna ha la sua mozzarella. No, no, no. E non c'entra niente il patriottismo, neanche la proprietà in sé. No, fatto di marketing strategico. Cioè noi la compagnia aerea è anche quello uno strumento di marketing. Per vendere altro, però non ci arrivo. Non ci arrivano. Pietrangelo, tu? C'è un cortocircuito della politica. Faccio un esempio concreto a proposito delle isole a cui facevi riferimento. In Sicilia c'è l'INDA, mi spiego meglio, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, mi spiego ancora meglio, è il Teatro Greco di Siracusa che attira per i suoi spettacoli unici al mondo un'infinità di turisti colti, agiati, danarosi, spendaccioni, che arrivano ogni anno per assistere alle rappresentazioni di un teatro che è a tutti gli effetti un teatro di Stato. Insomma, è come se fosse il Bolshoi a Mosca, noi abbiamo il Teatro Greco di Siracusa. Beh, ti do un dato. Alla BIT, la regione siciliana ha deciso di non fare entrare proprio il Teatro Greco di Siracusa. Cioè la nostra eccellenza. La nostra eccellenza, perché c'è un cortocircuito della politica, perché la regione siciliana, che ha ovviamente le sue logiche di, diciamo, di comparaggio affettuoso, ha deciso di escludere questo importante teatro proprio perché non corrisponde alle esigenze, diciamo, di un interesse politico minuto. Ma questo è un esempio concreto poi si dilata su tanti altri aspetti. Per cui un'isola meravigliosa, qual è la Sicilia, che potrebbe campare soltanto di turismo... Solo di quello, certo. Solo di quello, ha alle spalle storie di disfatta proprio in un ambito che è quello turistico-culturale, dove purtroppo... Sarebbe il suo specifico. È il suo specifico, ma dove purtroppo mette il becco un ceto politico che è assolutamente ignorante. Infatti la pigrizia, più che pigro, diciamo, è ignorante. L'ignoranza... E io dico anche la pigrizia, in genere reagiscono i piccoli a queste carenze. Alessandra Maroni non è pigra, è proprietaria di un bed and breakfast a Trastevere, nel cuore di Roma. Ecco, che cosa l'ha spinta in questo momento di crisi a aprire un piccolo bed and breakfast per stranieri? Noi seguiamo i clienti in maniera diretta, siamo con loro quando fanno colazione, parliamo le lingue, quindi gli raccontiamo della città, che cosa possono fare, gli consigliamo dei quindi buoni ristoranti. Vi aiutate anche a andare a visitare la città, insomma gli date... Assolutamente, quella è la cosa più importante, perché sennò il turista in realtà va di solito ai Musei Vaticani o diciamo al Foro Romano, il Pantheon, ma ci sono delle parti di Roma sconosciute dove il turista non va. Ecco, ma vince il passaparola oppure internet oggi è indispensabile? Direi che internet è indispensabile. Noi abbiamo cominciato lavorando con Booking.com, che è una grossa agenzia, e funziona direi molto bene. Chiedono delle percentuali a noi abbastanza alte, ma funzionano decisamente bene. Ma su una piattaforma internet che orienta molto la clientela, mi sembra che sia TripAdvisor, no? Sì, TripAdvisor. Sì, serve. Loro fanno i commenti sulle cose che hanno visto e dove sono stati. L'unico problema che sta sorgendo adesso con TripAdvisor è che loro non hanno l'obbligo di firmarsi. Lei dice che sono quasi esclusivamente stranieri i vostri clienti. Da me, diciamo, fra un 5-10% di persone italiane e tutti gli altri sono stranieri. Ecco, ma che cosa bisogna offrire assolutamente a questo tipo di clientela, che comunque è una clientela abbastanza selezionata? Bisogna assolutamente offrirgli accoglienza. In secondo luogo, loro sono sempre molto interessati al mangiar bene, al piacere di vivere italiano, quindi consigliarli tutti i posti giusti. E c'è molta concorrenza oppure c'è lavoro per tutti? perché a livello del turismo internazionale c'è una crescita complessiva nel mondo di questo turismo. Io ho la sensazione che a Roma sono cresciuti ultimamente molti questi bed and breakfast. In realtà adesso ho la sensazione che tutto ancora non sia saturo. In termini di servizi, cosa offrite di più? Wi-Fi? Abbiamo Wi-Fi in camera, abbiamo chiaramente delle belle camere ampie, abbiamo nelle loro stanze... Ci sono i quadri della mia famiglia e di casa mia e non quelle piccole cantine. Un ambiente molto familiare. Ecco, ma perché un turista sceglie un bed and breakfast invece che un albergo? Avrete capito un po' la filosofia? Presumo proprio per questa cosa dell'accoglienza. Uno arriva in un albergo, ha un concierge che comunque gli smista in un dentro delle stanze e la cosa lì finisce. Più intimità, insomma, più assistenza. L'intimità è proprio accompagnarli alla scoperta di una città. Ecco, ma vanno a ondate i turisti? Cioè, è un passaparola che qualifica anche il tipo di ospiti? No, la sensazione è noi abbiamo turisti che vengono dal Brasile, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dal Perù, da tutta l'Europa chiaramente. Forse ci sono, non so, dei periodi dell'anno dove, non so, arrivano più francesi, ma perché in Francia a maggio, per esempio, hanno più vacanze. Quanto conta nell'offerta che fate voi la valorizzazione del patrimonio culturale? Cioè, questo fatto che a Roma, per esempio, musei aperti o chiusi, eccetera, incide poi nella valutazione complessiva, nel tornare, nel fare un passaparola positivo? Penso che il vero problema di Roma è che la gente si ferma mediamente non più di 3 giorni. Invece ci sarebbero tantissime cose da fargli vedere che loro desidererebbero vedere, come, non so, Tivoli con Villa Adriana e Villa d'Este, ma è un luogo irraggiungibile. Quindi mancanza di servizi. Assolutamente. Io potrei dirle cose diverse da poter far fare me ne dica 5 velocemente. Allora, non esistono visite guidate in inglese. Poco, almeno ci sono delle piccole associazioni, ma se il comune di Roma facesse di più, l'altra cosa che interessa sempre a tutti molto è la parte dell'arte moderna e contemporanea, assolutamente poco valorizzata. Il Maxi è un centro di attrazione adesso, ma tutti i macro che ci sono a Roma, la gente vorrebbe vedere delle collezioni più importanti. Comunque loro sono molto interessati. Insomma, non sappiamo vendere quello che abbiamo. Questo no, potremmo venderlo, guardi, 10.000 volte meglio. Ma perché in questa grande ricerca internazionale che è stata fatta la Francia ha un numero di turisti molto maggiore dell'Italia? L'Italia è la maglia nera. Perché la Francia ha una struttura turistica imponente. Qualsiasi piccolo paese dove lei va in Francia c'è una situazione di accoglienza perfetta, le dicono che cosa vedere, le passeggiate da fare. Siamo, come dicono tutti, il paese che ha il 70% delle bellezze delle opere d'arte del mondo, ma non siamo capaci di venderle. Questo adorano, mi sembra... Adorano l'Italia, adorano la roba da mangiare, adorano l'accoglienza e il calore delle persone. I turisti sono felici di venire a Roma, ma poi si trovano perduti perché non esiste un'organizzazione tale che li porti a stare un giorno in più, 2 giorni in più. Io dico sempre alle persone: tornate in Italia, non so, gli do le cartine di Napoli o di Lecce. Voglio dire, se già solo noi albergatori facessimo pubblicità gratuita a delle altre regioni. Sembra una cosa molto, molto saggia, signora Maruni. Tanti auguri, buon grazie lavoro. Mille, grazie mille, grazie a lei. Sergio da Napoli, sì, rapidamente, buongiorno. Io volevo far emergere 2 contraddizioni. La prima, il presidente Bocca dovrebbe decidere o fare il parlamentare o il presidente di Federalberghi. Vabbè, la seconda? La seconda è che abbiamo un sistema turistico arretratissimo. Basti pensare che le Canarie nel 2013 hanno sviluppato più occupazione di posti letto rispetto a tutto il sud. Questo è drammatico, siamo in una situazione veramente negativa e io da operatore turistico la vivo quotidianamente. Quindi il sistema Italia, purtroppo, come ha non detto funziona. Lei, non funziona, e le camere di commercio, mi lasci precisare, sono gestite dalle imprese. Noi dovremmo fare una grossa autocritica. E i manager che mettiamo a capo di questi organismi sono fallimentari. Va questa bene. È la contraddizione. Bruttissima notizia. Grazie. Mix 24. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente. Mi piacciono le sbarbine. Mi sento deficiente. Yeah, yeah, yeah. Lo so che non conviene. Mi piacciono le sbarbine. insieme. Pietrangelo, quest'oggi mi sono assicurato, cosa festeggiamo? Mi sono assicurato un fatto, che il presidente Laura Boldrini non sia in ascolto, e allora ne ho approfittato per mettere "mi piacciono le sbarbine", e giusto per ricordare un grande artista che se n'è andato, un grande artista che con le sue canzonacce ha saputo toccare il sublime, per Roberto Frecantoni. Roberto Antoni, lo voglio ricordare appunto con "mi piacciono le sbarbine". Ma è sbarbina? È sbarbina, non lo so. Bolliamo? Bolle, cosa bolle in pentola oggi? Ma Giovanni, Pietrangelo, dimmi. Vai. Ma il passerotto Letta va via? Ma o tu, no? Ma tu la sai sta storia del passerotto? C'è un episodio che sicuramente Giovanni conosce. Quando venne a morire Pio XII, il suo segretario stava accudendo questo passerotto che era nella gabbia di Pio XII. Arrivò il camerlengo, piuttosto inferocito, acchiappò sto passerotto, lo strinse in pugno, lo spiaccicò e lo lasciò cadere. E lì si capì quale sarebbe stato il vento nuovo della Chiesa. La mamma non mia! Non il cardinale Siri, bensì hai capito? Un altro pontefice. Senti, un Giovanni, grandissimo pontefice. Il passerotto, che ha fatto una grande passerotto cosa. Letta, molla o no? Siri, mica no, mi risponde. Il cardinale Siri era anche lui un grande uomo di chiesa. Vabbè, ho capito, volete andare in Vaticano, però noi dobbiamo stare a Palazzo Chigi. No, no, siamo a Palazzo Chigi. No, no, io lo dicevo no, per non loro. Sappiamo chi la ci metafora va del passerotto è pericolosa. Molto pericolosa. Vabbè, ho capito, un po' di baglioni ancora, ma... E adesso? Salamini! Salamini! Allora, insomma, succede questo, che a un certo punto nell'immaginario italiano sbuca un nuovo oggetto, un nuovo feticcio, sfreccia è il caso di dirlo. E allora, io mi sono accorto che stamattina ho avuto anche uno scambio con Ernesto Carbone, che ha aperto una sua agenzia di car sharing offresi, perché era sua la smart di Matteo Renzi, quella che ha utilizzato per andare a Palazzo Chigi a concludere il suo duello. E allora io, siccome mi rivolgo direttamente a chi ha inventato questa macchina meravigliosa, ad utilizzarla diciamo nell'immaginario italiano, ad Ernesto Carbone ho chiesto: ma non è che ci sarebbe una balilla per me? Lui mi ha detto che è disponibile una Torpedo Blu, però io mi incaponisco e dico: caro Ernesto, no, voglio la balilla. E allora a lui dedico questo brano. Mica avevi una bella balilla, fu de rara de pel d'anguilla, vecchiunti la storia de come l'endada, che in 3 minuti me l'han dislinguata. Prima vedisi il mese che fumi, incominci desure e finissi mesdì. No. Vendi la soda lì scivessa un. Io non ed la, la grande tradizione basta. Milanese. Basta. Fatelo dire che proprio c'è una grande tradizione milanese. Tu no. Pensa che questa canzone, oltre a essere stato un cavallo di battaglia dei Gufi, fu un cavallo di battaglia di Iannacci, di Giorgio Gaber, quando c'era appunto questa possibilità di veicolare la cultura popolare e di renderla alta, ah, alta, tu parli alta, a me senza precipitare, appunto, lì volevo tranquilli. Dire. Adesso tu parli a me di cultura popolare? Vai. Vasco. Bevi la Coca-Cola che ti fa bene. Allora, vabbè, facciamo un po' di cose del mondo reale, perché questo buttafuoco oggi è un po' così, un po' surreale. Ah, surreale? Come? Coca e tutti Pepsi. I giornali hanno aperto sulla Smart. Sì, appunto, ti dice cosa? Il paese è a rotoli, apriamo sulla Smart, vabbè. Coca e Pepsi, parliamo di cose serie. Economia, tempi duri per le bevande zuccherate in America, però, nonostante tutto, Pepsi e Coca-Cola perdono relativamente terreno perché, sai, sono imprese globali, come sapete bene. Globalissime. I profitti scendono del 7% per la Pepsi, la Coca, la rivale, cresce nei volumi, ma anche lì i ricavi sono scesi un po' del 3%. Comunque parliamo di aziende che vanno fortissimo, fanno ricerca, trovano nuovi prodotti. Pensa, Giovanni, parliamo di numeri incredibili. Cioè la Coca-Cola ha venduto 181 miliardi di pezzi, di servings, così vengono chiamati. È una cosa spaventosa, non si può neanche immaginare. Naturalmente, prendere i soldi dalle tasche del tuo cliente e metterli nelle tue. Ma se ne fai entrare un po' anche nelle tasche del tuo cliente è meglio per tutti, giusto? No. Naturalmente siamo a Wall Street, ovviamente, con The Wolf of Wall Street, ci mancava, e Bankers, perché? Perché ci sono i dati di BNP Paribas, che ha una realtà importante anche in Italia, come sapete tutti, che accusa un colpo nei profitti, sotto del 76%, perché? Cause legali. 1.1 miliardi di dollari negli Stati Uniti hanno cominciato a mettere sotto le banche, si paga. In Italia ancora meno, ma probabilmente si comportano anche meglio, penso. Sì. Senti, ci sono dei miti, voi lo sapete, uno è la Elvis Royce. Allora, vabbè, la Rolls Royce, perché? Perché ci sono i dati anche di questo mito del mondo moderno. Fatti i soldi, ti compri la Rolls, si diceva, e il mito resiste, perché i ricavi del marchio inglese sono saliti del 27%, 3 miliardi di dollari pre-tax. Vorrei ricordare a tutti che la Rolls, nota per le sue elegantissime macchine, non fa solo automobili. È il secondo produttore di motori d'aereo del mondo. Prima. Bollettino della vittoria, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra solo un quiz. Contro l'Austria. Questo è il generale Diaz, l'alta guida di sua maestà, che annuncia la vittoria e io, il centenario. Sulla BBC segnala una pagina online da leggere tutti, chi ha scatenato la prima guerra mondiale, 1914, noi siamo entrati in guerra un anno dopo, ci sono veramente delle opinioni importanti, Serbia, Austria-Ungheria, Germania, chi l'ha fatto? BBC. La BBC prima, come sempre. Prima della pubblicità, il canzoniere. Oggi facilissimo. Ieri è stato facile, oggi facilissimo, sì. Perché è l'incipit. Ma ci roviniamo poi, Ci roviniamo, però abbiamo vincono tutti. Insomma, mi avete detto vai. non devo andare sul difficile. Non troppo difficile. Vabbè, prova a farlo. Ieri facile con Cyrano de Bergerac, oggi l'incipit del libro di filosofia per eccellenza, il libro del nostro tempo. Il libro su cui tutti sono. Allora, l'incipit è questo: benché la rinascita della metafisica sia un vanto del nostro tempo, il problema dell'essere è oggi dimenticato. È il libro fondamentale della filosofia contemporanea. Mix 24. Ancora, proviamo a risentire il nostro canzoniere. Allora rileggo sì. L'incipit. Benché la rinascita della metafisica sia un vanto del nostro tempo, il problema dell'essere è oggi dimenticato. Telefonate o sms firmati 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Sara, c'è qualcosa, qualche telefonata, qualche sms ancora? C'è una sorpresa, adesso fra un po' ci sarà il vincitore al telefono. Intanto noi parliamo con il professor Simonelli. Dov'era Buongiorno. Il canone ieri sera, professore? Il canone per ieri sera ve lo faccio sapere attraverso una sorpresa. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola i capelli del capo che gli aveva dietro guasto. Poi cominciò. Tu vuoi che buttafuoco e io, tutti gli stati, io voglio intervenire in aula per fatto personale tra il libro Carmelo Bene eccetera. Dopo mi concedi una bolla rocchettara perché sicuro, non ne posso più, non ne può due palle, ma che dici, Carmelo Bene supera il rock. Se non ci fosse stato Wagner, i Di Papo non sapevano dove andare. Sì, sì. Allora, professore, allora, questo Carmelo Bene, sono un po' monomaniaco, ma ieri sera il canone, la lotta per il canone sarebbe finita per manifesta superiorità ancora una volta di Rai 5. Alla miseria. Rai 5 ha mandato, dovremmo invitare il direttore oramai. Documentario di Felice K su Carmelo Bene. La figlia di Carmelo Bene, Salomè, leggeva alcuni passi del diario di Carmelo Bene riferito ad un'esperienza straordinaria del 1981, quando fu invitato dal sindaco di Bologna Zangheri a ricordare le vittime della strage dell'anno precedente, e lesse Dante dalla Torre degli Asinelli. E alternava questo documentario immagini di letture di Dante e immagini di Otranto, visto che avete parlato prima del paesaggio italiano e della vendita del paesaggio italiano. Otranto è una città meravigliosa, la figlia di Carmelo Bene si aggirava tra il castello Svevo e la famosa cattedrale e leggeva pagine di questo diario. Un'emozione straordinaria, quindi ieri sera non abbiamo dubbi. Va bene, era lì. Rai 5, anche canone doppio di quello che paghiamo. Doppio canone. Bravo, doppio canone. Bravo Pasquale. Scusate. Sì. C'è il vincitore. Allora, Gianluca. Gianluca. Buongiorno. Buongiorno. Da dove? Conduttori. Da dov'è che ci chiama Gianluca? Da Roma. Da Roma. Ah, e ci dice il. Di Martin Heidegger, essere e tempo. Giusto, mamma mia. Vabbè, Carmelo Bene, Heidegger. Vuoi andare con la tua balilla, bolla, la torpedo. Ribellione, vai. Led Zeppelin, che era un dirigibile, come sapete tutti, il primo album di questo grande gruppo aveva il dirigibile che prendeva fuoco, solo per dirvi che la Google si è comprata l'hangar della NASA a Moffett Field, dove io sono stato a fare un executive program, la Singularity University, un posto fantastico per fare esperimenti di intelligenza artificiale. Ha hanno capito? Anche l'aeroporto. Ha capito, professore? Vabbè, anche lì è un canone, un altro canone. Allora, posso dirvi ancora alcune cose sul canone? Dica, dica. Allora, prima di tutto, un canone lo daremmo a chi oggi o da oggi e domani ricorda in maniera dignitosa, degna, bella, una ricorrenza che... Forza! Sta indovinando, domani, nessuno, perché siete troppo filosofi. Domani ricorre il 10° anniversario della morte di Marco Pantani. Ah, noi veramente, professore, domani con Marina Milone ha curato la storia di Marco Pantani. E se lei avrà la compiacenza di ascoltare dalle 10 alle 11 la trasmissione, eccolo lì, Marco Pantani. Come si suol dire, nel frattempo che il santo vostro va, quello nostro ha già fatto 3 volte. Ma io invitavo la televisione, non la radio. Vabbè, senta, professore, noi siamo la radio. Noi siamo la televisione e la radio, scusa. Noi facciamo la televisione alla radio, ancora non l'ha capito, professore. Però, che la televisione faccia anche la televisione. Infine, un'ultima cosa, se ho tempo, perché è uscita questa mattina una notizia, ripresa da alcuni quotidiani, secondo cui la Corte dei Conti fa le pulci alla RAI per alcune spese eccessive riguardano il bilancio del 2011-2012 e dice che tra le cose, insomma, a cui bisognerebbe stare più attenti sono le spese per il Festival di Sanremo. Sì. siccome la prossima settimana c'è il Festival di Sanremo, staranno attenti, sicuramente. Viene speso bene, ma attenzione, 2011-2012, altrimenti butta fuoco da subito la colpa a Fazio. No, Fazio non c'era nel 2011-2012. Chi c'era nel 2011-2012? Chi c'era? Sa che in questo momento non mi ricordo chi c'era tra 2011 e 2012. Vabbè. Possiamo fare un quiz. Niente di grave. Erano le famose gestioni di Alleanza Nazionale. Io non ce la faccio più, è una puntata pazzesca. Sa tutto lui. Scusate, no. Professore, basta. Senti qua, basta. Ok, vabbè, potete riprendete pure. È impossibile stamattina, cioè Morandi, Carmelo Bene, la Torpedo Blu, con Carmelo Bene, ma che c'è una cosa fuori dal mondo, i Balilla, Minoli, c'è una che piace, che piace a lui, lo spot Fazio di Tizzetto per Sanremo è da considerarsi un reato per istigazione all'evasione del canone, Costantino, bravo Costantino, intanto c'è un nuovo giornale, sembra una cosa incredibile, ma c'è qualcuno che ha il coraggio di aprire dei nuovi giornali. Pagina 99. Emanuele Bevilacqua, Sara Tardelli l'ha intervistato. Emanuele Bevilacqua oggi è impegnato in una nuova sfida che si chiama Pagina 99. Ma ci racconta la linea editoriale di questo nuovo giornale? Come recita il sottotitolo, questo è un quotidiano di economia e di cultura. Uh-huh. Vogliamo provare a mettere al centro di tutto, soprattutto l'economia, come filtro per leggere la realtà, quindi non per imitare giornali più importanti di noi, ma provare a avvicinarci alla gente cercando di raccontare come alcune decisioni che vengono prese a Bruxelles come a Roma, alcune questioni che riguardano le imprese ci toccano direttamente. E naturalmente grande importanza anche alla cultura, perché spesso è lì, proprio in ambito culturale, che nascono quei fermenti che poi si dipanano nella società. Pagina 99 però durante il weekend cambia veste, cambia faccia. Cresce di pagine, diventa un quotidiano di 56 pagine che si apre anche a reportage, alle inchieste. All'approfondimento, insomma. All'approfondimento che durante i giorni della settimana è un po' più difficile. Stiamo cercando di trovare un respiro che è un po' il nuovo respiro che tutti noi abbiamo. Andiamo sul web spessissimo per vedere quali sono le informazioni più importanti, ma anche per capire alcune questioni. Ma il vostro target esattamente qual è? Noi pensiamo a un pubblico che ancora non si è stancato di comprare i giornali, ma che ne è un po', se ne è un po' allontanato. E qual è il vostro obiettivo di vendita in edicola? Ma a noi serve stare intorno alle 10.000 copie per non avere problemi. Okay. Ma questi primi giorni di uscita ci hanno detto che forse il risultato può essere tranquillamente superato. Grazie. Grazie molte. Auguri Emanuele Bevilacqua, la sua nuova avventura. Io ho sicuramente avuto una buona stella che mi ha permesso dopo tanti anni di essere ancora qui a fare cinema. Sono parole di Carlo Verdone, attore, regista, musicista che per 30 anni ha raccontato vizi e virtù degli italiani. Oggi noi raccontiamo la sua carriera e la racconta Marina Milone, che intervista anche a seguire un'inedita Paola Cortellesi.